diciamo che la nostra supermedia fotografa una dinamica in atto ormai da un po' di tempo, quindi un superamento del 5 Stelle da parte della Lega, e la fotografia è quella di una Lega che capitalizza un 5 Stelle più in difficoltà. Questo lo vediamo, a mio parere, anche nella questione di Ciotti, perché la votazione alla fine, quale che sia l'esito, potrebbe mettere pressione su 5 Stelle. Mi spiego: se ci fosse un voto positivo all'autorizzazione a procedere, probabilmente si creerebbe qualcosa di molto simile a una crisi di governo, e sappiamo che il Movimento 5 Stelle in questa fase sarebbe in difficoltà in una prospettiva del genere. Non ha, diciamo, un'altra sponda attorno a cui costruire una maggioranza, cosa che la Lega invece potrebbe avere nel centrodestra. Quindi la rottura del patto di governo avrebbe plausibilmente questa criticità per i 5 Stelle. D'altra parte, se, come ritengo molto più probabile, il voto sarà un no all'autorizzazione a procedere per Salvini, l'elettorato 5 Stelle, magari più vicino alle sensibilità delle origini, più vicino alle esigenze della magistratura, no? E a un certo rapporto tra magistratura e politica, magari quel pezzo di elettorato lì potrebbe un po' raffreddarsi. Va detto però che le indagini che sono state fatte sugli elettori 5 Stelle ci dicono che circa 8 su 10 sono contrari all'autorizzazione a procedere per Salvini sul caso di Ciotti. Ecco, l'altra domanda è: che effetto ha sulle percentuali di Salvini proprio il caso di Ciotti? Cioè, se ha avuto un effetto e se secondo te lo avrà? In questa fase il caso di Ciotti è a favore della Lega, favorisce Salvini e il consenso alla Lega per due motivi essenzialmente. Il primo è che comunque costruisce una sorta di meccanismo di difesa, no? Per cui viene vista da parte degli elettori della Lega come una sorta di attacco politico intorno a cui dunque reagire con compattezza. Quindi da una parte mobilita e emotiva, secondo me, l'elettorato salviniano. Dall'altro è chiaro che avere un dibattito che si trascina ancora sulla questione immigrazione, sulla questione sicurezza, è comunque un beneficio per Salvini, perché sappiamo che su quel tema lì è ritenuto più credibile, è più in grado di imporre la propria agenda. Quindi da parte dell'opinione pubblica, più si parla di immigrazione e sicurezza, più c'è un favore che va nei confronti di Salvini. E una tendenza che in realtà nei sondaggi sul voto alle prossime europee, sia quelli appunto di Supermedia, ma anche quelli diffusi oggi, il primo sondaggio dall'Europarlamento, sembra essere poi al di là, diciamo, dei confini nazionali italiani, un qualcosa che sta funzionando un po' in tutta Europa, la politica, diciamo, sovranista della sicurezza. Sì, questo è vero, perché infatti è un fenomeno che non è soltanto italiano, non è soltanto legato a Salvini, ma racconta tendenze che sono in atto in tanti paesi europei, non da oggi, perché sappiamo, no, quello che è avvenuto in Austria, quello che è avvenuto nell'est Europa, quello che è anche avvenuto, se vogliamo, in Spagna o in Francia, dove poi il governo è di un segno diverso, ma c'è stata comunque un'importante presenza elettorale di movimenti sovranisti, di movimenti di destra. Quindi certamente è un fenomeno europeo. Le proiezioni diffuse oggi dal Parlamento europeo comunque collocano le varie formazioni cosiddette sovraniste o populiste di destra intorno al 20% dei seggi. Chiaramente la cosa decisiva sarà capire quanto questa nuova presenza nel Parlamento di Bruxelles e Strasburgo sposterà a destra l'asse del Partito Popolare Europeo, in cui abbiamo per esempio Orban, quanto l'altra cosa, la maggioranza, diciamo così, moderata, socialisti, liberali e popolari, rimarrà compatta e rimarrà in grado di esprimere di fatto il nuovo Presidente della Commissione. Ecco, sì, infatti i sondaggi di oggi fanno parlare anche della possibilità appunto di una diversa alleanza per la maggioranza che vedrebbe il Partito Popolare insieme ai partiti più sovranisti. La domanda è fondamentalmente che effetti potrebbe avere anche sull'alleanza di governo in Italia se ci fosse questo spostamento, quindi se a livello europeo, diciamo, la Lega diventasse non maggioritaria ma comunque parte della maggioranza. E diciamo che questo è un po' uno dei due scenari, diciamo, positivi per i sovranisti. No? Quindi o portare il PPE verso di sé, creando quindi un'alleanza, diciamo così, tra centrodestra e destra, o rimanere fuori dallo schema di maggioranza nel Parlamento europeo e poter quindi capitalizzare il fatto di essere essenzialmente l'unica opposizione rilevante in termini di numeri. effetti sulla maggioranza del governo italiana ne vedo pochi sull'immediato, più criticità invece immagino nel momento in cui, per esempio, si trattasse di identificare, no, come nemico e quindi come interlocutore nel dibattito italiano una Europa che a quel punto avrebbe la Lega in maggioranza e che quindi non potrebbe più essere presa, tra virgolette, anche da Salvini come bersaglio. Qui potrei vedere alcune criticità, però, come dire, entriamo un po' nel terreno della fantapolitica.